come home this evening. You're too tired to love your man, but you ain't done yourself no working, and so I just can't understand what I done wrong. Ben ritrovate, ben ritrovati sui microfoni sulle frequenze di Radio Wombat, frequenze per chi ci ascolta via etere in onde medie. Da un po' di mesi siamo ritornati, siete tra i fortunati che stanno nel piccolissimo raggio che copriamo, oppure a chi ci ascolta in streaming, o ancora a chi ci ascolta più probabile nei podcast della trasmissione. Questa è Coccoli al Silicio, che inizia, penserete, se siete puntuali mi aspettavate alle 9, in realtà oggi sono le 9:30, non sono io che sono in ritardo, cioè sono in ritardo ma solo su un cambio non preannunciato di orario della trasmissione, quindi in realtà virtualmente sono in orario, nel senso che teoricamente sarei alle 9, ma in pratica sono passato alle 9:30, solo che non l'ho detto praticamente a nessuno e quindi sono, diciamo, in orario sull'orario non detto. Ecco, ho fatto questa variazione in corso d'opera. D'ora in poi quindi Coccoli al Silicio sarà sempre lunedì, ma alle ore 9:30, e vi terrà compagnia per circa mezz'ora, 40 minuti, e quindi cambia poco rispetto a prima, cambia solo che io arrivo con un poco più di calma in trasmissione e magari faccio poi anche meno casini tecnici e meno gaff in diretta. Non credo, penso che continuerò uguale, però vabbè. E questo, insomma, era per scusarmi in anticipo del ritardo programmato, ecco. E quest'oggi abbiamo diverse notizie interessanti. Una è proprio fresca, proprio di pochissimo tempo fa, nel senso che ho guardato verso le 6 e questa notizia non c'era ancora nei miei siti di riferimento, ma ora invece è uscita e quindi ve la riporto. Sostanzialmente, se siete degli utenti di Google Plus, sappiate che verso, penso, agosto del prossimo anno, nel 2019, in realtà questa piattaforma verrà chiusa. E verrà chiusa in virtù del fatto, che un po' di tempo fa, qualche mese fa, verso marzo, ma non c'era stato detto da Google, in realtà si era verificato una specie di furto di informazioni, ma piuttosto massiccio, tipo quello che aveva coinvolto Facebook qualche settimana fa, quindi una clamorosa figuraccia per Google, e che riguardava proprio gli utenti di Google Plus. Cioè, pare che una falla di sicurezza non meglio specificata nelle API che permettono agli sviluppatori di in qualche modo relazionarsi, interfacciarsi con Google Plus, ecco, permetteva in realtà di rubare username, email e tutti i vari altri dati che voi mettete, cioè i dati del vostro profilo, le foto, eccetera eccetera. E questa cosa è stata tenuta nascosta da Google per un po' di mesi, che poi se n'è uscita con questo annuncio, dicendo che sostanzialmente, dato che hanno fatto questa clamorosa figuraccia e preso anche atto del fatto che Google Plus è utilizzato ma solo fino a un certo punto, sostanzialmente rimarrà utilizzabile soltanto per gli utenti enterprise, ma per gli utenti normali sparirà come servizio. Cioè, siccome non ci stiamo stiamo troppo dentro a stargli dietro, diciamo che riduciamo la mole di utenti per non accollarci un disastro troppo grande, e ne facciamo una versione che teniamo meglio sott'occhio, ma perché ci avrà molti meno utenti. Questa è l'idea di Google. È un po' interessante che proprio in queste settimane comunque se ne escano un po' tutti questi grossi colossi del web con questo problemino del fatto che hanno i dati di tantissima gente, quindi ogni loro scivolata è un disastro da questo punto di vista. Diciamo che l'architettura estremamente centralizzata che ha preso il web in questi anni come quasi unica strada possibile inizia in qualche modo a marcare a rendere molto evidenti le problematiche che solleva, nel senso che non è che era l'unico modo possibile questo di fare le cose, cioè alla fine la rete era nata come una struttura più o meno decentralizzata, o almeno possibilmente, almeno c'era questa possibilità, ecco, l'aver scelto poi di affidare tutto a dei grossi colossi che gestiscono i dati di tutti quanti è stata una scelta in qualche modo non obbligata, ma una scelta ben precisa di campo, di una visione del mondo, eccetera. I limiti di questa visione del mondo sono davanti a tutti, che fare io non mi sembra neanche così difficile, ecco, nel senso che non siete obbligati a usare tutti questi servizi, non siete obbligati a dipendere da queste tecnologie per quanto esse possano sembrare estremamente comode e facili, e se anche voi scegliete di farlo vi accollate il rischio, quindi posto che Google ha una grossa responsabilità in questo, Facebook senz'altro, le grosse aziende del web ce n'hanno tantissime, pure gli utenti che ci si affidano così a babbo morto però hanno anche le loro precise responsabilità. E ora vi lascio un altro pochino di musica mentre mi preparo con la seconda notiziola, e poi la terza e poi la quarta e poi si va tutti a nanna, almeno io sì. Quest'oggi vi faccio ascoltare, cambio un pochino lo stile musicale, non è funk questa volta, questa volta è Screaming Jay Hawkins. Vi faccio ascoltare tutto un album, il titolo non lo ricordo neanche, ma la sua voce è molto molto molto particolare, e quindi diciamo ve la lascio come sottofondo per tutta la puntata. Sbagliato, perché ho beccato esattamente l'unico momento in cui si è zittito l'album che avevo messo. A sto punto vi dico anche il titolo, visto che ce l'ho scritto davanti. Vi sto facendo ascoltare dei brani da Something Funny Going On, e ora vediamo se mi riesce di farlo ripartire. Ora ci riesco, sì, mi è riuscito, e allora buon ascolto. La prossima notizia riprende in realtà una cosa di cui avevamo già parlato tempo fa, qualche settimana fa, vi avevo sommariamente tentato di illustrare un problema che ha interessato degli apparecchi abbastanza utilizzati anche in ambito domestico, diciamo, degli scatolotti della Microtik, che però sono comunque degli oggetti anche utilizzati a livello aziendale. Ecco, questi scatolotti, che fanno principalmente da router, inizialmente erano affetti da un problemino, neanche tanto piccolo, che permetteva di bypassare alcuni sistemi di autenticazione, e apriva poi con un bug, cioè un altro delle problematiche che aveva era un classico path traversal, cioè un qualcosa che permette sostanzialmente, a partire da una, normalmente una directory, diciamo un URL web, di risalire all'indietro nel file system e andare a prendere dei file che non stanno all'interno della cosiddetta document router web server. Cioè, quando voi avete un marchingegno webboso, cioè quando vi collegate sostanzialmente a un sito, questo sito è come se fosse chiuso all'interno del file system in alcune directory, e quella dovrebbe essere tutta la visibilità che lui ha, cioè tutte le cartelle che vede, tutti i file dovrebbero essere a partire da una certa cartella in giù. Se voi riuscite a risalire in su, sostanzialmente riuscite ad accedere a dei dati a cui non dovreste avere accesso. Ecco, gli stessi ricercatori che avevano trovato i precedenti bug sul Microtik, da cui anche questo path traversal, ora hanno rilasciato un nuovo exploit, dopo averlo diciamo detto alla Microtik perché loro potessero rimettere a posto le cose. Sostanzialmente avevano fatto un altro scanning di queste vulnerabilità, trovando che comunque gli utilizzatori dei Microtik evidentemente non l'avevano presa troppo sul serio, e infatti c'erano ancora più del 70% vulnerabili a questo attacco. Allora hanno detto: vabbè, allora noi proviamo ad andare oltre. Allora hanno rilasciato un nuovo proof of concept di questo attacco, che hanno chiamato By the Way, che permette sostanzialmente, di usando il directory traversal, il path traversal, di rubare le password di amministratore. Poi loro preparano un pacchettino, sfruttando il fatto che ora sanno la password di amministrazione, lo buttano sul Microtik, sostanzialmente aprendosi la possibilità di ricollegarcisi e in qualche modo diciamo bypassare i meccanismi di sicurezza, e quindi diciamo hanno parecchio spinto oltre la propria diciamo le potenzialità di questo attacco, perché prima permetteva di fare alcune cose, ora è un sostanzialmente quello che viene chiamato un remote code execution nuovo, però nel senso che non è un, anche se parte da una vecchia vulnerabilità, è in realtà nuovo. E quindi quello che in bella sostanza viene fuori è che uno, se effettivamente possiede un Microtik, dovrebbe tendenzialmente pensare di aggiornarlo, oppure dare per scontato che sì, diciamo il Microtik lo condividerà con altre persone che ne faranno utilizzo diciamo più o meno conforme alle loro idee, alle loro aspettative, alle... Cioè, diventa il Microtik un po' di tutti quelli che sanno sfruttare questi bug. Uno può anche decidere, mi va di condividere il mio Microtik con tante persone, così come esperimento di antropologia, e vedere un po' che ci fanno. Però tendenzialmente, se volete tenervelo solo per voi, il vostro Microtik, sarebbe buono che ve lo aggiornasse. È una classe questa abbastanza interessante di bug questa, perché appunto interessa degli apparati che alla fine sono abbastanza diciamo scagati, cioè uno li mette lì e poi pensa che continuano ad andare da soli, si dimentica che ci sono, perché alla fine quello che fanno è girare pacchetti da una parte all'altra, non è che ci interagisci troppo. E evidentemente però diciamo questa a lungo andare è una, cioè è un non lo so, cioè nel senso che non è che per forza deve essere un problema. Io ve lo riporto, poi giudicate voi se è bella, brutta o ininfluente o questa cosa. E quindi il diciamo questo nuovo bug, che io vi linko anche poi sul blog, nel senso che vi metto, come faccio di solito, anche il pezzettino di diciamo il codice da GitHub, così ve lo potete anche vedere. È comunque interessante, sempre se avete un interesse a capire un pochino queste cose, perché appunto stando lì a disposizione ve lo potete anche andare a spulciare, e volendo cercare di capire anche che cavolo fa e come lo fa. Non è onestamente cioè sono 323 righe di codice, quindi è anche, cioè, diciamo, non è neanche lungo da leggere. È scritto in C++, così avete anche occasione di cimentarvi con la lettura di questo linguaggio, e questo è quanto. Ora un altro pochino di musichina e poi andiamo a parlare sempre di cose legate all'hardware dei computer e dei marchi ingegni che fanno funzionare l'internet, questa volta riferito però a una questione un poco più su grande scala, un poco più spinosa rispetto a questa dei MicroTip, che vi illustrerò però tra un pochetto. I'm gonna tear off a rainbow and wear it for a tie. I never told the truth, so how in the hell could I tell a lie? Whistling past the graveyard, stepping on a crack. I'm a mean mother hubba papa, one-eyed jack. E su questa schitarratina un po' blues, un po' rock and roll, che supporta la voce di Screaming Jay Hawkins, vi illustro la prossima notiziola. Questa appunto riguarda un territorio molto più spinoso e controverso, pare infatti, almeno così risultava da un articolo di Bloomberg, diverse macchine, diverso hardware con componentistica cinese, cioè praticamente tantissimo, cioè quasi tutto quello che abbiamo in mano ha qualche componentistica proveniente dalla Cina. Ecco, in alcune particolari macchine, di solito di fascia, diciamo, server, quindi qui particolarmente si parla di cose che hanno a che fare con l'azienda Supermicro, e che chi bazzica un po' gli ambienti, diciamo, sistemistici eccetera, è gran parte dell'hardware che si utilizza e ha qualcosa a che fare con questa azienda. Ecco, sostanzialmente cosa è successo? Che è apparso un articolo, appunto su Bloomberg, nel quale si parla di una specie di minuscolo chip che verrebbe messo durante la manifattura cinese di queste board, cioè durante il montaggio della componentistica di queste board, che è questo chip grosso come un granello di riso, pare, sarebbe una specie di mini computer, un mini chip atto a rendere possibile il controllo da remoto di quell'hardware. Il punto è che questa non è che è una future documentata, pare che sia una future un po' occulta, che il, diciamo, il governo cinese ha deciso di, almeno questo secondo l'articolo, sostanzialmente di inserire in queste macchine che poi solcano l'oceano e magari finiscono in mano, che ne so, all'intelligence statunitense, a grosse compagnie statunitensi tipo la Apple, Amazon, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che la questione diventa un pochino più spinosa, più complessa, più di rapporti tra stati, più di mega operazione di intelligence e di spionaggio. C'è da dire però che sia Apple che Amazon e anche la stessa Supermicro hanno sostanzialmente rigettato questa lettura, queste notizie emerse da Bloomberg, dicendo che loro non hanno mai saputo nulla di chip, diciamo, malevoli, non hanno mai saputo nulla di questo tipo di operazione, né hanno mai contattato l'FBI o altre agenzie per segnalare incidenti di questo tipo. E quindi è tutto rimasto un po' in quella specie di limbo tra che non si capisce e cioè si capisce e non si capisce. Cioè non si sa se queste compagnie sostanzialmente si abbiano fatto queste affermazioni per non gettare nel panico oppure per pressioni dell'intelligence che ha detto negare tutto, oppure se perché effettivamente è una cantonata, diciamo, di Bloomberg boh. E questa cosa non si sa, rimane così. Se nelle prossime settimane ci fossero delle news a riguardo, io tosto mi periterò a raccontarvele perché è un argomento effettivamente parecchio interessante. Soprattutto perché fa vedere come alla fine, diciamo, tutte queste apparecchiature elettroniche che noi possediamo, sebbene sembrino provenire da una molteplicità, essere tutte diverse, in realtà, a livello poi di componentistica, spesso, sono tutte abbastanza simili. Cioè, c'è sempre un passaggio in qualche modo presso aziende ben precise che ce le veicolano e nello specifico non sono così tante come potremmo pensare. Cioè si possono contare anche, penso, non sulle dita di una mano, ma senz'altro se ve ne cito 100, probabilmente abbiamo coperto il 90% della produzione di questi oggetti. E chi produce gli oggetti ha effettivamente un gran potere, ha un gran potere. È come dicono nelle saghe dei supereroi, un grosso potere vuol dire grossa responsabilità. No, cioè in realtà un grosso potere significa proprio male, cioè nel senso non dovrebbe, il mondo non dovrebbe funzionare in meccanismi accentrati di potere tali per cui se uno fa una stronzata poi questa la pagano tutti. È proprio, cioè, l'ABC della sopravvivenza, sostanzialmente, questa cosa qui. Cioè, nel senso che cioè, diciamo che se vogliamo protrarre cioè, se l'umanità vuole sopravvivere a se stessa ancora un pochino, questa cosa sarebbe importante comprenderla, perché altrimenti si finisce un po' a gamba all'aria tutti quanti. E con questo vi lascio a un altro pezzettino di Screaming Jay Hawkins, intanto che preparo la prossima notiziola, visto stasera come sono frizzante, pum pum pum pam pam pam. My toes. same. Playing horn with Sinatra. E parliamo adesso di soldoni, ed è uno dei miei argomenti ormai preferiti, forse si sarà capito, ma ogni tanto vi cito questo gruppo di hacker sostanzialmente legati, almeno così dicono, al governo nordcoreano, che hanno questa roba che ogni tanto cambiano nome, sono conosciuti in mille modi diversi, da Lazarus Group, Guardians of Peace, e poi un altro nome che adesso è venuto fuori, questo Hidden Cobra, al quale a quegli altri, non so, ve lo dico sempre, sono associate alcune grosse, almeno vengono associate dagli analisti dell'intelligence, alcune grosse operazioni tipo WannaCry, oppure, che ne so, il furto di megadati, cioè il mega furto di dati alla Sony del 2014, un po' di attacchi alle banche. Questa volta di nuovo torniamo a parlare delle banche, con questo nuovo attacco che è stato chiamato Fast Cash, cioè denaro al volo sostanzialmente. E questa volta cosa hanno architettato questi geni del male? Sostanzialmente hanno avuto questa idea di diffondere un malware nelle banche che sta lì e gira e cerca di trovare quelle componenti che gestiscono poi gli sportelli ATM e questo tipo di operazioni. Quindi sostanzialmente quelli da cui io posso prelevare, fare pagamenti o prelevare denaro contante. Questo nuovo attacco, che appunto si diffonde, pare, così hanno detto, perché non ci sono grosse certezze, attraverso campagne di phishing mirato, quindi probabilmente a dipendenti delle banche, mette in giro un malware che poi si va a cercare questo tipo di componente. Quando la trova tenta sostanzialmente di sfruttare delle debolezze che evidentemente questi sistemi hanno e che loro immagino conoscano, perché altrimenti non si capisce. Da sottolineare, come nell'articolo si riporti, che molte delle macchine che sono state compromesse in questo modo usavano una versione, quella che è sostanzialmente l'IBM di Unix, cioè AX. E quindi sostanzialmente forse utilizzano qualche attacco a questo sistema operativo. Comunque quello che loro poi fanno è sostanzialmente sostituire su questi oggetti quella componente software che autorizza i pagamenti, solo che se la questione è lecita, il pagamento viene autorizzato, vi vengono prelevati i soldi dal conto e poi vi vengono dati i soldi, oppure insomma, se fate un pagamento, viene autorizzato il pagamento e vi vengono tratti i soldi. Loro cosa hanno fatto? Loro hanno fatto in modo che praticamente il pagamento passi ma non vada oltre, e quindi questo pagamento illecito su un conto che evidentemente loro possiedono su queste banche si traduce nel fatto che tu hai un conto lecito su cui, poniamo, c'hai 50 euro. Ecco, diciamo che te dici che ne vuoi prelevare 500 di euro, lui ti guarda se c'è il conto, poi intercetto quella parte di software che sarebbe quella che mi fa il controllo se posso prendere 500 o se invece, avendone solo 50, non ho la disponibilità. Loro dicono sempre sì, c'è la disponibilità. L'operazione non viene registrata, ma va comunque a buon fine, ma non viene registrata. Quindi sul mio conto mi rimangono 50 euro, dalla banca me ne danno 500, io passo al bancomat, chiappo i soldi e vo via. Bomba, eh? È forte questa cosa proprio. E niente, questi signori sono stati beccati è stato scoperto sono stati riportati degli incidenti legati a questa struttura Hidden Cobra. Pare che nel 2017 abbiano fatto prelevare simultaneamente denaro da 30 diversi paesi, cioè da sportelli collocati in 30 paesi diversi, e nel 2018 una nuova campagna, questa volta ha colpito 23 paesi diversi. Quindi a un certo punto del giorno hanno iniziato sti bancomat a dar via soldi, cioè non lo so, io me le immagino come una scenetta, e diciamo sì, si calcola, non ho capito in bene a base di cosa, probabilmente sulla base di questi incidenti, che sono stati sottratti così decine di milioni di dollari. Che cosa buffa. E quindi niente, questo è questa notizia, cioè se tra tutti gli acronimi, no, che vi avevo citato, forse Hidden Cobra non ve l'avevo mai detto, legato appunto a questi... A questi hacker che paiono essere sponsorizzati, come si dice, dal governo, sostenuti dal governo nordcoreano. E ora vi lascio un altro po' di musichina, poi vi segnalo in chiusura di trasmissione sostanzialmente qualche cioè la puntata di un'altra trasmissione che va in onda su Radio Onda Rossa, un po' perché hanno parlato di cose molto interessanti e poi perché hanno parlato anche di IFDU, cioè l'E-Club che è nato qui a Firenze e di cui vi darò qualche notiziola anche dopo, e che è reduce dalla sua prima iniziativa sabato scorso con la presentazione di Mastodon, che pare essere andata piuttosto bene. Per questo voglio parlarvi dopo un po' di musichina anche delle loro prossime iniziative. Come vi dicevo, l'editore l'ha presa, e questa trasmissione che va in onda una settimana sì, una settimana no, la domenica sera su Radio Onda Rossa di Roma, e che potete anche ascoltarvi comodamente in podcast successivamente, ecco, non è che dovete per forza essere a casa alle 9 e nei pressi di Roma. Ci sono o ve l'ascoltate in diretta streaming, oppure vi potete scaricare i podcast cercando sul sito di Radio Onda Rossa, che poi vi metto, ma l'avevo già fatto altre volte, comunque ve lo rimetto, vi metto il link sul blog. Ecco, la puntata di questa domenica è in realtà molto, molto interessante, e vi cito direttamente dal loro sito, dove potete scaricare il podcast. Il titolo della puntata era Viralità e disinformazione in rete. L'abstract, diciamo la descrizione della puntata, era: parliamo di viralità in rete con esempi di messaggi diffusi su mezzi tecnologici di ogni tipo. Introduciamo le caratteristiche dei meme e ne raccontiamo qualcuno. Tra i meme vi sono alcuni costruiti ad hoc da aziende commerciali e politiche che si basano sul contenuto emotivo per diffondere informazioni false e trasfigurare la realtà. Parliamo della botnet della Lega, del caso serbo di astroturfing di Stato e delle citazioni false di Pasolini. E inoltre, alla fine, in chiusura, intervistiamo due nuovi E-Club. Uno era appunto IFDU di Firenze e l'altro era Officine, che mi sembra sia un nuovo E-Club a Roma, se ben ricordo. Ecco, l'argomento è senz'altro super interessante, quindi io non dico nulla, ma vi invito ad ascoltarlo, perché è un argomento senz'altro di super super attualità, che probabilmente tocca la vostra vita molto più di tutte le cose che vi racconto io, che sono facezie, credo. E poi appunto ne approfitto a questo punto per dirvi che la prossima settimana dovrebbero iniziare presso l'E-Club alla Polveriera i primi corsi appunto della neonata organizzazione struttura IFDU. Questo E-Club apre i propri corsi con una roba molto base, sostanzialmente sull'architettura dei computer e dei sistemi operativi, a cui seguirà in quel di dicembre, credo, no, in quel di novembre, non me lo ricordo, il calendario dei corsi preciso non lo so in realtà, prometto la prossima settimana di dirvi più precisamente tutto il calendario dei prossimi mesi, per ora vi posso solo dire appunto quello che succederà la settimana prossima. Il corso, appunto quello che non ricordo quando sarà, è un corso di sistemi a reti. Quindi sostanzialmente riprende un po' la prima parte, ma la proietta molto di più sull'ambito della conoscenza e l'utilizzo anche abbastanza basso livello delle reti informatiche, cioè qualcosa di abbastanza diciamo essenziale dal mio punto di vista, dal momento che volenti o nolenti sono strutture che ormai sono fortemente collegate anche con la loro componente telefonica. Praticamente ogni cosa che fate da quando vi alzate passa da qualche tipo di rete informatica, se la fate con un computer o con un telefonino, e siccome siete persone come tutte le altre, penso che sostanzialmente gran parte della vostra vita passi sulle reti informatiche, quindi magari spendere qualche cosina di tempo per capirci qualcosina in più di come funziona questo mondo potrebbe essere una buona idea. Vi lascio magari a un altro pochino di musica, intanto che guardo sull'internet se trovo le date precise dei corsi, visto che ho questo potente strumento appunto di reti informatiche, e lo uso in questo senso per carpire delle informazioni tipo quando ci sono precisamente i corsi, anziché tirare completamente a indovinare. Quindi un pochino di musica e poi vi saluto dandovi anche le informazioni precise che vi ho promesso. You needed a private number, your very own telephone. I would always hear you whisper, "No, I'm not alone." And now you up and left me. Things are better than before. To put up with your mama, 200 pounds of screaming meat. I could hardly eat my dinner for the smell of that woman's feet. And now you up and left me. Things are getting better than before. Evidentemente trovare notizie su questi corsi è più difficile di quello che penso, perché non lo riesco a trovare, sostanzialmente non sono riuscito a trovare sul maledetto internet le informazioni che mi servono. Non so se perché non sono state ancora messe, oppure se sono io che sono stordito, oppure se l'internet fa schifo. Io propendo più per l'internet fa schifo, e quindi vi rimando sostanzialmente alla prossima settimana, in cui magari vi dico precisamente tutte le informazioni del caso, o meglio anche le metto magari sul blog, ora che finisco la trasmissione carico il post sostanzialmente. No, perché è molto strambo, nel senso che riesco a trovare le robe sulla serata di sabato 6 ottobre e fino lì è l'era facile. E poi non riesco assolutamente a trovare nient'altro sui corsi. Quindi o c'è stato un impasse comunicativo, nel senso che si è dato per scontato che dopo il 6 ottobre non succedeva più niente, le cose continuavano a diffusione vocale, che io sono favorevole, oppure sono io che non riesco a trovare le cose sull'internet e sono scritte in qualche luogo che non mi è noto, così. E vabbè, comunque poco male, insomma in qualche modo rimedierò. E con questa scivolone di chiusura puntata, che come al solito mi contraddistingue per la mia scarsa preparazione su tutto ciò che non è abbastanza tecnico, cioè ho qualche difficoltà con le date, i nomi e queste robe, e sono più bravo a parlare di stronzate tecnologiche viste dal punto di vista di chi è bravo a romperle e non è bravo a ripararle, sostanzialmente. E quindi vi saluto, vi lascio ancora un pochino al buon Screaming Jay Hawkins, e poi vi do appuntamento a lunedì prossimo, vi ricordo alle 9:30 d'ora in poi, anche se non penso che ci sia proprio la folla di gente che si scapicollava il lunedì sera a ascoltarmi in diretta, ma se lo facevate non deprimetevi che non ci sono più io alle 9, ma inizio solo mezz'ora più tardi. Ciao a tutti e a tutti e buona serata.